Insomma, diciamo, i risultati, chi ha vinto, chi ha perso, poi ahi noi è la prima cosa che si va a vedere, mi sembrano abbastanza inequivocabili, cioè Romney ha fatto una performance molto al di sopra di quelle che erano le attese, lui sempre così legnoso, impacciato, anche nei dibattiti ogni tanto gli scappava durante il ciclo delle primarie una gaffe. E Obama invece insomma, appeso come grande performer. In realtà Obama è più un retore che non un debater, però insomma nessuno si aspettava una prova così incolore, così svogliata, un po' insomma come di chi passa lì per caso. Ecco, siamo arrivati a 10 milioni e passa di tweet per il dibattito sulle presidenziali, livello il massimo raggiunto per un evento politico americano, uno dei livelli maggiori della storia di Twitter, vicino a quello del Super Bowl. Ora, forse c'è stato un impatto dal lato della percezione immediata di questa caduta di Obama, no? Invece di dover aspettare i commenti successivi, magari i commenti dei giornali del giorno dopo, che il mood fosse quello, si è capito subito. Immediatamente, questa è la, diciamo, la grande rivoluzione che i social network e Twitter, per il suo carattere così istantaneo, così solubile, immediato, ha portato e porta nel ciclo elettorale, anche in quello americano, insomma, un ciclo elettorale, come dire, scafato, che conosce tecniche e tecnologie da anni. Beh, insomma, i social network stanno un po', cambiando la metrica e anche la grammatica di questa corsa per la Casa Bianca. Il numero impressionante che tu hai citato, potrebbe far pensare, vabbè, ma è solo una cosa quantitativa. No, è anche una cosa qualitativa. Immediatamente questo Obama, così un po' scarso, è stato sanzionato da ironie, da polemiche, da disillusioni e delusioni. Te ne dico un'altra, il ruolo, o meglio il non ruolo giocato da Jim Lehrer, cioè dal moderatore, se vogliamo, quello è stato un caso nel caso, cioè a dire il format del dibattito TV, che da noi ovviamente è la terra promessa, ma che in America ha una onorata storia che viene dal famoso confronto tra Kennedy e Nixon del 1960, proprio in forza del fatto che il moderatore si è limitato a fare il metronomo, dando la parola all'uno e all'altro, ha mostrato la corda. Immediatamente Twitter se n'è accorto. Jim Lehrer, grande, grandissimo, eccetera, ma non è più il suo momento, non è più la sua ora, e questa enorme spinta che veniva da Twitter poi si è trasformata in una critica non solo al moderatore, ma in una ridiscussione su se ci sia bisogno o meno di una sintonia fine, di qualche cambiamento del format stesso del dibattito televisivo. È interessante una cosa poi in realtà, perché mi sono capitati sotto i dati del Pew Research Center, che fa molte analisi da questo lato proprio sui social media, dal quale in realtà emerge che su Twitter e su Facebook c'è stata in realtà una maggioranza di persone che durante il dibattito favorito Obama, per così dire, mentre invece le cose sono andate in maniera completamente diversa per quanto riguarda i blog. Questo è anche un aspetto curioso. Sì, assolutamente, ma sai, intanto le piattaforme diverse inducono anche chiavi di lettura diverse. Mi è capitato l'altro giorno di rivedere il dibattito e rivedendolo, intanto cogli delle cose che ti eri perso nell'immediatezza, un po' perché da noi era l'ora del lupo alle 3, alle 4 di notte, quindi era anche complicato seguirlo con la dovuta attenzione. Però ciò detto, le stesse dichiarazioni di Obama che nella prima, nella, nel, nel, insomma, nell'immediatezza sembravano stentate o comunque appunto distratte, beh, insomma, guadagnavano, sentendole più da vicino, guadagnavano anche in efficacia, in messa a fuoco. Cioè a dire, paradossalmente, se live Obama ha molto deluso, per esempio nella fruizione di YouTube, fatta di piccole pillole, di segmenti, di highlights, beh, questo ovviamente cambiava e mutava di segno, cioè Obama risultava più efficace perché magari isolato, senza il confronto, senza il gioco dello schermo diviso in due. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io seguo il dibattito oltre alla diretta attraverso i social network, se me lo recupero, e così avranno fatto milioni di persone, come documenterà magari più avanti lo stesso Pew Research Center, magari avrò un'impressione, o maturerò un'impressione diversa. Tu parlavi dei blog e dei social network, è così, ovviamente i blog hanno per esempio un approccio, una vis polemica molto più aggressiva, insomma sono più al confine con il giornalismo, è chiaro che possano avere un'idea, una percezione diversa rispetto alla immediatezza di Twitter oppure alla dinamica like o meno di Facebook ad esempio, cioè a dire del dibattito non si butta via niente, e se davanti alla televisione erano in 60 milioni e più, però tante altre persone, altre, non dico altrettante, ma altre centinaia, migliaia, milioni di elettori si vedranno e si rivedranno e si ricomporranno il loro dibattito. E questo è molto interessante. Per chiudere, Filippo, una riflessione che hai affidato appunto alle colonne di Europa, una riflessione sul fatto che poi alla fine però si torna sempre là, si torna alla televisione, no? Chiudi il pezzo dicendo, parlando dei social network e di quello che è avvenuto in quella serata, un panopticon che non scalza e rinforza la primazia del povero diavolo televisivo, nel quale democratici e repubblicani continuano a investire tonnellate di denaro. Insomma, sempre là tocca tornare. Un po' è così, un po' c'è l'idea che ce la suoniamo e ce la cantiamo in rete, non è vero, però soprattutto parlo di Twitter proprio perché per la sua, insomma, per la sua forza, per l'impatto che ha, un po' c'è questa idea di una comunità chiusa che si dice le cose, si ritwitta, si riverbera, si riflette, questo non vuole, una comunità magari amplissima di migliaia, di decine di migliaia di persone, per carità, però gli strateghi elettorali, gli spin doctor dei candidati puntano i loro soldi sulla televisione, lo fanno in una maniera incredibile sia dal punto di vista del carico di dollari che ci mettono sopra, sia dal punto di vista del fine tuning dei focus group, cioè del lavoro di sondaggi e di analisi che si fa sui dati, il famoso big data di cui si parla molto adesso. Che cosa vuol dire? Che nelle campagne tutta la parte digitale non è che sta lì a mettere un colorino sul sito web o a fare il jingle dello spot, ma macina quantità impressionanti di dati che ci dicono chi sono i miei elettori, in quella strada, quella casa, un repubblicano, lì ce ne sono sei democratici. Tutti questi dati poi, l'output qual è? Viene fuori nelle decisioni che si devono prendere dal punto di vista della strategia della campagna elettorale. Allora, cosa significa questo? Che io in Wisconsin, se devo arrivare agli elettori, faccio uno spot e faccio pure lo spot per il web, ingaggio anche una discussione via Twitter o faccio un bel hangout su Google+, però se devo mettere soldi so che li metto ancora in televisione e ancora di lì si passa per vincere la Casa Bianca.